l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino. Se non ci credete, beh, questo è il saluto live dei ragazzi del liceo Giordano Bruno di Torino. Si parla di Europa, si parla con il nostro Taglio in questo programma in collaborazione con Euronet. E partiamo da chi a Bruxelles ci vive e l'Europa ama cantarla. Paolo Bergamaschi live dal nostro stand padiglione 2L161. Lui è Paolo Bergamaschi, che si canta l'Europa locali, ma la sua professione è un'altra. Grazie Paolo, poi insomma ci accompagnerai, sarai un po' la colonna sonora di questa puntata. Noi puntiamo molto sulle storie, la tua storia è bellissima, la scopriremo fra poco. E poi gli altri ospiti qua con me, do il benvenuto a Petra Reschi. Ciao Petra. Ciao. Giornalista e scrittrice, autrice di un libro che ha presentato proprio ieri qui al Salone, sulla strada per Corleone, Verde Nero, storie di mafia tra Italia e Germania, perché Petra da anni analizza, studia questo fenomeno delle contaminazioni mafiose tra Italia e Germania, e anche lei lo fa parlando di storie. E poi alla mia destra, forse lo conoscete voi che lo potete vedere qui live perché è un volto noto della televisione, forse ormai è l'inglese più famoso in Italia, con questa scusa che lui ha capito come spiegare l'inglese, l'Inghilterra e tutta la cultura anglofona agli italiani, ma è un vero cialtrone. Do il benvenuto a John Peter Sloan. Ciao John. Grazie per l'applauso spontaneo da tutti quanti. Thank you very much. Allora John, parto con te perché insomma vogliamo subito dare un taglio leggero a questa puntata. Okay. Tu nasci come cantante, cabarettista, attore, ma eri scarso, è questa la... No, io sono pilla generale, ce l'ho anche scritto. No, sì, scrivo, adesso ho fatto il corso d'inglese per gli italiani, però in quelli più grandi, perché voi che siete, cioè tipo, cos'è la media d'età qua? Tu sono 15 anni. Un po' di più. You will speak English perfectly, right? You will speak English, right? Really? Put your hand up if you speak English. No, ho detto, allora, voi parlate tutto inglese? Ha detto, yes! Ho detto, alza la mano chi parla e non entri. No, perché sono timidi. Perché, certo. No, but I teach English to Italians. Mm-hmm. Chi hanno la difficoltà un po', lo faccio in modo comico, un po' più leggero, capito? Ok, English in viaggio è il tuo ultimo libro con la Gribaudo, right. Però... Al di là dell'insegnare inglese, lo fai con questi libri che hanno avuto tanto successo, e tu anche uno spettacolo, perché analizzi un po' questo confronto culturale tra noi italiani e voi inglesi, anche se tu ormai sei molto più italiano di tanti di noi. Sì, ma io infatti mi sono innamorato d'Italia perché perché gli italiani in realtà non si rendono conto, però gli italiani sono tutti fuori di testa per noi inglesi, capito? E siccome io sono fuori di testa anch'io, cioè io mi trovo da Dio in Italia. Perché l'Italia è viva, cioè è vero che tanti stranieri lamentano su... Ogni paese ha i suoi problemi, si lamenta, ma nessuno se ne va via, nessuno va via dall'Italia, cioè perché qua è la gente che fa l'Italia, non è perché c'è la torre storta a Pisa o quella roba rotta a Roma. Si chiama pendente, però non storta, è pendente. La però torre è storto, chiamala come vuoi. Ecco, per capire le differenze culturali, John fa poi esempi molto pratici. Uno che mi ha fatto molto ridere era di quando... Poco tempo fa sei andato allo stadio. Sì. Cioè... Ah sì, sì, sì. No, allora, io il mio lavoro è osservare gli italiani e questa è la cosa più divertente al mondo, perché gli italiani fanno tutto diverso da noi inglesi. E uno degli ultimi che io ho raccontato lui ieri a telefono, perché è proprio fresco, era... voi credete che certe cose si fa in tutto il mondo? No. Senti, solo voi a fare certe cose. Ora, siccome adesso sto concentrando proprio sulla comunicazione, perché l'italiano è il più grande comunicatore che esiste. Voi avete proprio il bisogno di comunicare in ogni situazione. Già a dottore aspettare, c'è un inglese aspetto al dottore un'ora fermo, c'è l'italiano arriva, comincia a cantare, comincia a messaggiare, comincia a attaccare i bottoni a tutti, ma si può morire aspettare questo qua. Questo è un esempio banale, però uno che è speciale, che ho visto adesso, era con mia amica. Allora, io adesso racconto questo, quando racconto agli inglesi dicono, what? Però loro che sono italiani diranno, allora, dov'è il problema? Allora, ero in macchina con mia amica Antonella. A un certo siamo sempre in fascia protetta, questo te lo ricordo perché so che ogni tanto poi mi scivoli via. Ok, okay. Non posso dire parolacce. Limitiamoci. Ok, va bene. Ok, allora, a un certo punto fa, io sto guidando, fa, guarda quel palazzo lì, io guardo su, vedo questo palazzo e faccio, quali? Quello rosso, lì abita mia cugina. Allora, questa è una cosa banale, però mio cervello inglese ha detto, ma che minchia me ne frega a me? Perché? Perché? No, ma veramente, perché me l'ha detto? Ora, aspetta, io ho detto, boh, sarà pazza lei. Poi però non sono solo le ragazze, perché io poi andavo a San Siro a vedere il mio primo derby Inter Milan con mio amico Fabio, io giravo a destra, lui fa, se giri a sinistra ti faccio vedere dove lavora mio padre. Oh my God! Oh my God! Allora ho detto, no, allora lascia perdere il San Siro, andiamo a vedere dove lavora tuo padre. E lui, perché? Appunto, perché? Ora, perché devono comunicare, ed è una cosa bella, perché l'italiano vuole comunicare sempre, vuole convivere, e convivere tutto, anche se non te ne frega niente, lo convivono. Okay. Bellissimo. Gio Peterson, insomma, questo è l'English in viaggio, lui che racconta, insegna l'inglese, ma racconta e insegna anche come siamo noi italiani. Questa è l'altra Europa, ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta dal Salone del Libro di Torino. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 9 Lainate Como Chiasso si formano code per un incidente tra Saronno e Turate verso la Svizzera. C'è un incidente anche sulla tangenziale est di Milano, rallentamenti all'altezza di Cologno Monzese verso Bologna. Infine traffico rallentato per lavori sull'autosole tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze. È tutto, il prossimo appuntamento è tra mezz'ora. L'altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta dal Salone del Libro di Torino. Come i ragazzi appunto del liceo scientifico Giordano Bruno di Torino, che hanno partecipato a un progetto molto importante. Aspetta che mi sono legato intanto, siamo in diretta, che si chiama PEG, voglio il microfono, eccolo qua. Allora, voi avete partecipato, come ti chiami? Allora, Giulia, abbiamo fatto le prove, non devi ridere, so che siamo in diretta e tutto. Siamo accesi? Siamo accesi. Che cos'è questo PEG e cosa avete fatto, Giulia? Allora, il PEG è un'associazione, l'acronimo è Parlamento Europeo Giovani. Si tratta di questo comitato che si occupa principalmente di problemi. E praticamente i giovani fanno quello che fanno i parlamentari in Parlamento, ossia si occupano di risolvere un topic, quindi un problema che ci viene dato dal Parlamento Europeo Giovani, quello che scelgono loro. E noi dobbiamo preparare una risoluzione, ossia prendere dalle informazioni che ci sono dalle leggi, trasformarle poi in idee e quindi trovare un modo a livello europeo per risolvere questo problema. Quindi concretamente avete fatto questa cosa, anche voi c'eravate, vero? Fatemi proprio un esempio concreto, qual era il problema e qual era la soluzione o risoluzione che avete trovato? Innanzitutto si divide in due fasi. Abbiamo fatto una prima fase in, diciamo, le preselezioni per arrivare poi alle nazionali. E nelle preselezioni il nostro topic, il nostro argomento era l'integrazione, quindi noi dovevamo cercare di risolvere il problema dell'integrazione degli stranieri in Italia e abbiamo fatto varie proposte, diciamo. Ma tipo ti ricordi una di queste proposte? Abbiamo una proposta, ad esempio, era la creazione di un blog in cui ognuno poteva esprimere le proprie idee, i propri pensieri e quindi sentirsi più integrato nella società. Mentre quando siamo passati per le preselezioni siamo andati alle nazionali e il problema era la situazione in Bielorussia con le elezioni di Lukashenko. E anche lì avete analizzato la situazione, avete fatto un vostro progetto, avete fatto delle vostre proposte. Sì. Insomma, quindi un occhio abituato all'Europa, poi capiremo come magari anche altre scuole possono partecipare a questo progetto, però si parla di Europa, si parla di Parlamento, si parla di Bielorussia anche, quindi insomma temi tuoi. Paolo Bergamaschi, una storia curiosa, tu nasci veterinario, giusto? Certo, sono veterinario, fino a 5 anni fa ho praticato la mia professione, ecco. Tempo perso. Facendo la scuola fra Bruxelles e la provincia di Mantova, provincia rurale per eccellenza, io specializzato in bovini. E cosa ci durante la settimana mi occupavo di animali politici e durante il fine settimana mi occupavo di animali nel vero senso della parola. Non vogliamo sapere le differenze, John. Sì. Stai calmo che ti ho visto partire subito. Sì. È difficilissimo parlare con Paolo Bergamaschi, perché voi lo chiamate e solitamente risponde qualche collaboratore o la compagna o la moglie, e dicono sempre no, è sempre in nazioni che finiscono in stan, cioè sei sempre in viaggio, e questa è la tua vera... Spesso in viaggio, certo. Cosa fai al Parlamento? Cioè, tua settimana, allora, cosa vuol dire lavorare al Parlamento europeo? Allora, le mie mansioni sono sostanzialmente quelle del consigliere politico, nel senso che io sono quello che stende i testi delle risoluzioni, degli emendamenti, position papers, che riguardano i temi principali di politica estera all'interno della Commissione Affari Esteri. Quindi in parte fai quello che hanno fatto i ragazzi? In parte faccio quello che fanno i ragazzi, certo. Loro hanno dovuto scrivere delle risoluzioni, quello che tu fai e studi, e per studiare però non studi solo... Qualche volta faccio anche gli speech per i deputati quando me lo chiedono, i bullet points, come si dice, i punti salienti, se loro non sanno cosa dire. Ok. E poi viaggi, perché poi vai viaggio, a cercare, certo, questa Europa che c'è o che non c'è? Ma l'Europa è sottoposta ad un fuoco di critiche incredibile nel suo interno, però dall'esterno nessuno la mette in discussione, anzi tutti i paesi vicini vogliono entrare nell'Unione Europea, per cui l'Unione Europea, che nel nostro interno non brilla assolutamente, anzi è sfumata come senso, è sottoposta a moltissime critiche, all'esterno invece viene vista come il massimo, ecco, come l'obiettivo ultimo. Passaporto di servizio, un viaggio est alla ricerca dell'Unione Europea è il titolo del tuo libro pubblicato con Infinito Edizioni. Qui racconti di nazioni che appunto bussano all'Europa, di nazioni che confinano con l'Unione Europea e cercano integrazione. Fra i quali la Bielorussia, appunto, che è stata analizzata dai, certo, ragazzi. Tu questa vera altra Europa, l'Europa a fianco, l'Europa oltre confine, la vedi, la frequenti, la conosci. E cosa raccogli? Quali sono le sfumature che ti porti a casa da questa altra Europa? Beh, che l'immagine che hanno loro del continente, cioè dell'Unione Europea, è completamente diversa da quella che abbiamo noi che ci viviamo dentro. Questo c'è un elemento di contrasto molto forte, per cui la spinta ad entrare è fortissima e continuano a bussare a questa porta. Basti pensare a quello che ha comportato nel 2009 e nel 2010 l'abolizione del visto d'ingresso per i cittadini dei Balcani. Pensiamo cos'era la Jugoslavia prima, proprio perché era un paese di mezzo, al cavallo della cortina di ferro, fra i paesi delle dittature comuniste e i paesi della democrazia occidentale. Essendo la Jugoslavia un paese di mezzo, i cittadini non avevano bisogno di visto né per viaggiare nei paesi dell'est né per viaggiare nei paesi dell'ovest. Improvvisamente, crollata la Jugoslavia, crollata la cortina di ferro, quelli che erano cittadini jugoslavi si sono visti ghettizzati in piccoli stati, chiusi, senza la possibilità di viaggiare né a Occidente né a Oriente, per cui è stato uno dei paradossi europei, per cui hanno dovuto aspettare fino al 2009, fine del 2009 con la Serbia e con la Macedonia, e poi alla fine dello scorso anno i cittadini della Bosnia, dell'Albania e del Montenegro per poter viaggiare liberamente senza visto nei paesi dell'Unione Europea. Davanti a noi ci sono una quarantina di diciassettenni, diciottenni, no? Quindi una generazione che di fatto è nata con l'Europa, comunque già fatta. E che danno per scontato l'Unione Europea, cosa che invece non è. Esatto, danno per scontato, cioè voi adesso il micro... provvediamo adesso, ci sarà il momento timidezza, ma voi vi sentite europei? Cioè la vivete questo sapore dell'Europa? Lei vuole parlare, lei. Sì. Sì, mi sento dentro l'Unione Europea e credo sia una cosa molto utile e soprattutto molto interessante, perché sì, c'è la possibilità di viaggiare e comunque di creare un collegamento, un link tra i diversi paesi con le diverse culture, ma riuscire comunque a legarli e a sentirci un po' tutti... Posso fare una domanda, Federico? Posso, certo, fare una domanda? Certo. Secondo voi di che paese si occupa la Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo? Cioè di che paese mi occupo? I paesi che hanno a che fare con problemi... Cioè, io mi occupo di relazioni Italia-Germania o mi occupo di relazioni Italia-Bosnia-Erzegovina? O Unione Europea-Bosnia-Erzegovina? Noi, ad esempio, lì al Parlamento Europeo Giovani eravamo appunto la commissione degli AFET, quindi affari esteri. Ah, bene. E ci occupavamo di problemi che riguardavano paesi che non facevano parte dell'Unione Europea. Certo. Quindi extraeuropei. Con i paesi terzi che non fanno parte dell'Unione Europea. Insomma, quindi un'Europa che c'è, che si respira, al di là degli scambi. So che qualcuno di voi ha fatto qualche scambio anche che va al di là del conoscere una lingua, perché questa Europa la si conosce solo vivendola. Però la domanda era, tu che la vivi questa Europa, i 17enni, 18enni, 19enni che vedi nel resto d'Europa hanno la stessa consapevolezza, loro ne hanno di più, ne hanno di meno? Qual è il rapporto con questa strana entità che continuiamo a chiamare Europa? Ne hanno sicuramente di più. Non so se John ha avuto la mia esperienza. Io quando dovevo muovermi avevo bisogno di un biglietto Interrail, dovevo fare non so quanti scali alla dogana ferme ogni volta che passavo una frontiera diversa per muovermi dall'Italia al Belgio. Oggi la faccio direttamente senza mai fermarmi da nessuna parte, quindi c'è una grossa differenza rispetto alla mia Europa e rispetto a quella che stanno vivendo loro oggi. Certo che anche parlare di Europa, parlare di euro con un inglese, cosa? L'euro, cioè questa sì. Cosa che so che in Inghilterra non è molto ben vista, no? Come mai? Beh, ok, prima di tutto voglio scusarmi che ho detto che avete 15 anni prima. Io è molto presto e non vedo molto bene. Però guarda che dovrebbe essere un complimento che sembrate più giovani. Un giorno sarete grato. Comunque, allora, siccome siete tutti 17 anni, non sapete che negli anni 70 in Inghilterra nostra leader era un trasvestito fascista di nome Margaret Thatcher. E lei ha messo... No, ma lo è, eh? Io ho letto un libro scritto da me. No, scherzo. Comunque, e lei ha messo molto paura all'inglese, ricordando che l'Europa ci ha voluto già dominare in varie guerre, soprattutto la Francia, la Francia, 100 anni di guerra, è vero. Dopo di quello, la Germania, 2 guerre in 100 anni. Quindi, prima ancora l'impero romano. No, l'impero romano non è vero perché non c'erano gli inglesi. I celtici, i romani sono andati lì a massacrare i scozzesi. I scozzesi è un razza di persone pelosi con la minigonna che abita al nord, dietro un muro, e hanno conquistato loro, non gli inglesi, perché gli inglesi erano già ancora in Germania. Vabbè, comunque... Facciamo un riassunto, perché... Sì, hai ragione. Allora, il riassunto è questo, che il motivo ufficiale perché non siamo parte dell'euro è che non convenga. Il governo inglese dice non convenga, ma se tu economicamente non convenga, e adesso quella scusa non sta più in piedi. Se tu però fermi gli inglesi per strada, lui è contro per altri motivi, perché comunque c'è un grande malfiducia. Mm-hmm. Si dice? Ci piace, quindi te la diamo buona, okay? C'è un grande malfiducia soprattutto Germany, France, e l'Inghilterra vuole tenere sua identità, ma veramente, perché a Londra tanti posti non accettano l'euro, proprio c'è un rifiuto. E l'Europa l'hanno fregato anche, perché la scusa era noi vogliamo la regina sui soldi. Allora Bruxelles ha detto mettila. E loro, oddio, adesso? Dobbiamo fare. Però che John poi fa quello distaccato. In verità era in prima fila al matrimonio di William e Kate. È vero. No, aspetta. Avevo sbagliato chiesa. In che senso? No, ok. No, sono andato lì, sì. E non volevo andare. Sì, io adesso lo posso dire. Io sono andato lì perché mi hanno mandato al matrimonio, perché... Oh. Volevano in inglese lì per TV italiano, allora sono andato. Però ti posso dire, era bello, ti sei divertito? Non il matrimonio, tutti i ciuchi per strada, bellissimo, cioè, assolutamente. Okay. Chi si ricordava del matrimonio? Tutti, a cosa? A chi serveva? Vabbè, insomma, una sfumatura in più di questo matrimonio che ha catalizzato. A me la cosa che ha colpito di più del matrimonio, ero in Turkmenistan, a Ashgabat, fuori dal mondo. Esatto. Non funzionano neanche i cellulari, infatti tu non potevi raggiungermi, hai cercato ma non sei riuscito a trovarmi. E l'ambasciatore inglese a tutti noi ospiti che eravamo appena arrivati ci ha mandato l'invito per andare all'hotel tal dei tali ed assistere assieme al matrimonio. Ci sei andato? No, non ci sono andato, avevo altre cose da fare. Grazie, però è grazie, solo per no. dire ok. L'altra Europa. Confini, non confini all'altra Europa, ancora in diretta dal Salone del Libro di Torino. Ciao e bentornati in questa puntata dove facciamo lezioni d'Europa a modo nostro, partendo dalle storie. E adesso è una storia bella quella che andiamo a raccontare. Andiamo in Germania. Se io dico Germania, qual è la prima cosa che vi viene in mente? Così secca. È il... secondo me il nazismo, mi viene in mente quello. Subito Germania, luoghi comuni o non luoghi comuni? Le salsicce. Le salsicce, perfetto. Se dico Germania, adesso non aggiungere birra subito che non pare... Hitler, hot dog, kraut. Insomma, sì, sono i luoghi comuni. Cosa posso fare? Petra, cosa puoi fare? È questa la Germania? Sì, infatti sì, cosa non posso neanche negare, ovviamente i tedeschi hanno la loro responsabilità storica, assolutamente. Vuole dire neanche l'Italia non è si macchiata molto di onore in quel periodo, voglio dire, no? Assolutamente. Sì, solo che facciamo un po' fatica a riconoscerlo noi. Petra, è difficile essere una tedesca che ha scelto di vivere in Germania? In Italia, scusa? È comunque meglio di essere una tedesca in Italia che una tedesca in Germania. In che senso? È più divertente ovviamente di essere in Italia. È più divertente? Assolutamente. Allora Petra Reschi, ti sei guadagnata l'applauso. Scrittrice e giornalista con un focus particolare della tua attività che è la mafia, quindi una scelta importante, una scelta forte che ti ha coinvolto anche personalmente. Tu qui stai presentando questo libro appena uscito, Sulla strada per Corleone, storie di mafia tra Italia e Germania. Quando ti sei accorta che c'era la mafia anche in Germania, ma soprattutto quando e perché ti sei accorta che questa storia andava raccontata? Ma soprattutto il fatto che ho fatto un libro che si chiama Santa Mafia, che precede questo, e in seguito di questo libro è stato annerito, alcune pagine sono state annerite su richiesta di alcuni protagonisti di questo libro. Annerite, censurate? Censurate su richiesta del tribunale tedesco. E mi sono accorta che nonostante la strage di Duisburg, i tedeschi non si sono accorti proprio per nulla della presenza della mafia in Germania. E io, avendo scritto da tanti anni sulla mafia in Italia, l'ho ritenuto opportuno di spiegare ai tedeschi di non sentirsi così immune come lo credevano contro la mafia. E ho fatto questo ultimo libro in cui ho raccontato la mia esperienza, perché il fatto di essere stato minacciato durante una presentazione di un mio libro in Germania è stato per me una singolare esperienza, perché io sono stata, in tutti questi anni sono stata minacciata quando sono stata a Corleone oppure a San Luca quando abbiamo fatto le ricerche. Il fatto che loro avevano il coraggio di minacciarmi in Germania pubblicamente dimostra che loro si sentono completamente lì senza nessuna persecuzione, purtroppo. Dunque io ho fatto in questo libro racconto un viaggio che ho fatto a 20 anni, quando avevo ancora questa idea folcloristica della mafia, no? Perché io quando avevo letto Il Padrino, come tanti, ho detto ma che curioso questa storia, e sono andata dritta da Kamen, nella cittadina vicino a Duisburg, dove sono cresciuta, a Corleone. E quindi hai fatto un viaggio in automobile da sola? In una vecchia Renault 4 con il mio fidanzato, che lui aveva paura di andare in Sicilia. E comunque alla fine io adesso volevo fare ho fatto lo stesso viaggio in cui racconto ovviamente con la mia esperienza di oggi cos'è la mafia in Germania e cos'è la mafia in Italia, e soprattutto il fatto che in Germania credono che sia tutto un problema italiano come lo credono in Europa dappertutto, però la Germania ha una particolare responsabilità perché c'è il più alto tasso di mafiosi che sono in Germania, questo adesso ormai 40 anni, e non c'è nessuna reazione né politica né sociale verso questo problema. Tu nel libro dici che la mafia non è un problema italiano, non è un problema tedesco, è un problema europeo, questo è un po' l'approccio, poi tu hai messo il focus su queste due nazioni. E in Italia la mafia c'è, se ne parla, è ovunque, e però c'è anche tutta un'attività parallela di consapevolezza di questa cosa e quindi anche di educazione alla legalità. Questa cosa succede anche in Germania o lì si finge di non vedere? Cioè noi siamo migliori quindi la mafia non l'abbiamo? Non è che non si finge, non la vedono, perché la mafia ovviamente in Germania non si comporta come a San Luca, come a Napoli, come a Palermo, si comporta come da buoni tedeschi. Loro, i mafiosi in Germania, non lasciano neanche cadere un pezzo di carta per strada, dunque non passano per il semaforo con il rosso, si comportano da buoni tedeschi. Dunque è molto facile negare l'esistenza della mafia in Germania, come lo è anche nel nord dell'Italia, la stessa cosa, molto paragonabile. Ma il problema è che ci sono, non c'è una coscienza neanche per, dunque sentendosi immune contro questo virus mafioso, dunque non c'è neanche una educazione alla legalità, perché non si capisce cosa vuol dire la mafia, pensano che sia solo un problema italiano. E ci sono anche in Germania, c'è solo una piccolissima organizzazione adesso a Berlino che si chiama Mafia Nein Dank, che si è accorta un po' di questo, che vuole fare un po' di educazione alla legalità anche nelle scuole, dunque è molto poco. E questo viaggio che hai fatto a 20 anni l'hai ripetuto? Sì, l'ho ripetuto questa volta, però non in una vecchia Renault 4, però in una Spyder bianca. Dunque, ok, ti sei evoluta, diciamo. E poi ovviamente io descrivo tutti i luoghi, diciamo le roccaforte della mafia in Germania, come sono per esempio a Stoccarda, che è un centro, oppure dove sono cresciuta io nella zona della Ruhr. Poi racconto tutto questo viaggio, tutti questi passaggi fino ad arrivare a Palermo, e sono incontri con persone anche, tra l'altro, con tanti Madonna siamo in diretta dal salone, sono quindi abbiamo tanti personaggi anche del movimento antimafia, che ho ritenuto anche opportuno di spiegare cosa è, perché in Germania credo che questo coraggio che hanno alcune persone in Italia, di per esempio un contadino là vicino a Catania che si è rifiutato di pagare il pizzo, e lui è stato punito per questo, perché lui ancora oggi vive sotto scorta, tua famiglia, sono alcuni che non salutano neanche più. Io ho trovato, credo che non è facile trovare persone così coraggiose come le ho incontrato in Italia, in altri posti. Insomma, abbiamo un pubblico di ragazzi, sto pensando anch'io ai diciottenni e ventenni qui a Torino, per esempio con Don Ciotti dell'associazione Libera, ma gli stessi coetanei di Addio Pizzo a Palermo, e sta nascendo qualcosa di simile anche in Germania, quindi... Io spero, però c'è una mancanza di informazione sulla mafia in Germania, purtroppo, perché finché si parla solo della mafia in Italia, adesso che è uscito questo libro sulla strada per Corleone in Italia, sono stata chiesta in Germania, oddio, se il tuo libro esce in Italia è pericoloso, non capiscono che per me era più pericoloso in Germania, quando non si capisce cos'è la mafia, che in Italia, che ognuno, anche il mio fruttivendolo, sa cos'è la 'ndrangheta, dunque... È molto meglio, diciamo, se essere minacciato, è meglio essere minacciato in Italia che in Germania. Grazie Petra, un applauso, perché insomma, al di là dell'essere una scrittrice e giornalista, avete sentito quanta passione. Paolo, è pericoloso quindi dire le cose come stanno in Europa? Cioè anche tu a volte corri dei rischi nella tua professione, mi chiedevo, cioè frequentando nazioni che si conoscono poco, di cui si sa poche, quindi... Si hanno anche forti pregiudizi, forse? I pregiudizi sono altissimi. Poi, viaggiando in aree abbastanza instabili, vulnerabili dal profilo sociopolitico, geopolitico, insomma, ricordo per esempio tutti i viaggi che ho fatto negli immediati mesi dopo lo scoppio della guerra nei Balcani e ancora adesso in Kosovo, per esempio, dove c'è l'instabilità abbastanza alta. Ci si trova in zone dove i livelli di sicurezza non sono quelli che pensiamo potrebbero essere, o almeno che ci troviamo dalle nostre parti, questo senz'altro. Tornerei al PEG con il responsabile locale qui del Piemonte, di Torino. Sono il responsabile e il coordinatore del Comitato Locale di Torino. L'Associazione Parlamento Europeo Giovani è uno dei 35 comitati nazionali che formano il network internazionale European Youth Parliament, e ovviamente al suo interno ogni comitato nazionale ha dei comitati locali. Ecco, prendendo spunto da quello che stanno dicendo i nostri ospiti, no? Comunque l'Europa è una cosa bella, solitamente andiamo a sottolineare gli aspetti positivi, però ci sono anche difficoltà vere. Voi che Europa raccontate o che Europa fate analizzare ai ragazzi che partecipano ai vostri progetti? Come hanno detto gli altri ragazzi che hanno partecipato a Lucca, i problemi dell'Europa in generale, quindi anche il problema di Lukashenko e della Bielorussia. È un'Europa allargata, come ho detto, di comitati... Tra l'altro, scusa se ti interrompo, proprio perché nomini Lukashenko, 10 giorni fa ho avuto la possibilità di incrociare Lukashenko nel mio hotel a Ashgabat, perché naturalmente i dittatori fra di loro sono sempre in contatto, per cui c'era il vertice fra il dittatore della Bielorussia e col dittatore del Turkmenistan, ed erano nello stesso hotel dove c'ero io, misure di sicurezza incredibile, ed ho incrociato il mitico Lukashenko. Ok, hai telefonato al ministro per... No. No, sì, no. Amico. Noi anche se abbiamo 18 anni lo sappiamo chi è Lukashenko. È un'Europa allargata, nel senso, come ho detto, i comitati nazionali sono 35, sono più dei paesi membri dell'Unione Europea, perché tanti paesi membri, soprattutto dei Balcani, quindi sì. La Serbia per esempio ha aderito al Parlamento Europeo Giovani, e questi tanti giovani d'Europa hanno voglia di mettersi in gioco e raccontare i problemi dell'Europa e cercare delle soluzioni che siano utili. Le scuole possono partecipare a questo progetto facendo richiesta, come e dove? Sì, allora l'associazione invia alle scuole il bando e le scuole possono rispondere facendo una risoluzione. In caso contrario, nel caso nel senso il bando non venga inviato, si può comunque contattare l'associazione, basta cercare su qualunque motore di ricerca Parlamento Europeo Giovani, oppure il sito è www.euipitaly.org. E in ogni caso gli eventi sono sessioni regionali, nazionali, internazionali o forum. Il prossimo evento in Italia sarà la sessione regionale di Torino dal 1 al 3 ottobre, in collaborazione con la città di Torino. Grazie. John, abbiamo 30 secondi, vorrei una cosa di colore. Adesso non ti chiedo un riassunto di quello che abbiamo detto in quest'ultimo blocco, perché temo. Era molto molto interessante queste cose, però parlando di tuo marito prima, anch'io ho paura di andare in Sicilia. Tu hai visto come guidano a Palermo? Questo era il make ex. Mamma mia, è detto da un inglese. Terrore puro. Oh, anche a Napoli. Sì. Io ho terrore andare a Napoli solo per traversare la strada. Ho terrore anch'io, non sei l'unico, il terrore anch'io. E io poi non ci dopo vado mi devi. Chi è Luca Shenko? Lui ha detto: noi abbiamo 18 anni, sappiamo tutti chi è Luca e chi? Luca Shenko? Sì, non gioca nel Milan. Allora non è. Perfetto. L'altra Europa. Eccoci qua in diretta dal Salone del Libro, padiglione 2, stand L161, la programmazione di Radio 24 per tutta la giornata qui, quindi se siete al Salone o se volete passare già, vedo Paolini che è il gastronauta, sarà qua in onda dalle 11, insomma, quindi Radio 24 presente, noi siamo presenti con la nostra Altra Europa, programma in collaborazione con Euronet, network europeo di radio, di voci, di storie, di punti di vista diversi. Cerchiamo anche argomenti comuni che andiamo poi a trattare, e così con le nostre specificità. Il tema scelto questa settimana da Euronet è un tema importante, che è quello del terrorismo, di quanto è successo con Bin Laden. Tutti lo sappiamo perché leggiamo i giornali, viviamo nel mondo reale. La domanda difficile, complicata, che ci siamo posti come Euronet è proprio questa, cioè cosa succede ora? C'è un pericolo terroristico nuovo, diverso, che è aumentato per l'Europa? Ovviamente è anche difficile trovare una risposta a questa domanda, però volevamo un contributo particolare e lo abbiamo trovato grazie a Farian Sabai. Ciao Farian. Ciao Federico, ciao. Buongiorno a tutti. Bella anche la tua storia, è difficile presentarti. Tu preferisci partire dal lato accademico, quindi comunque sei docente di tematiche orientali, o di quello da scrittrice, da autrice? Come vuoi tu. No, direi quello accademico, visto che abbiamo una platea di giovani studenti. Tu insegni culture politiche dell'Islam all'Università di Torino, ma i tuoi studi insomma hanno spaziato a 360 gradi un po'. Ma guarda, io ho avuto un percorso abbastanza accidentato, non so se c'è tra il pubblico qualche seconda generazione, qualcuno che è figlio di uno straniero, di un immigrato. In prima battuta mi sono laureata in economia e commercio in Bocconi, poi ho capito che non c'entravo niente con quel mondo, ero andata a lavorare in una banca americana e tutti mi chiedevano: ma perché questo nome Farian Sabai? E tra l'altro anche un secondo cognome, che è un titolo religioso, Sayed, discendente del profeta Maometto. Io non ne sapevo assolutamente niente, perché non è che mio padre ci avesse spiegato granché. Sì, ho i nonni in Iran, sono andata tante volte, però non sapevo. Quindi ho intrapreso tutto un percorso di studi che poi è diventato un percorso di lavoro sull'Iran e sul Medio Oriente, quindi diciamo che ho conosciuto quel mondo perché ero direttamente coinvolta, non per altro. Ecco, la cultura può essere paradossalmente, ma fammi usare paradossalmente con mille virgolette, una risposta, una difesa contro il terrorismo? Quello sicuramente, la cultura anche per cercare di sfumare le umiliazioni che ci sono tra tanti giovani di oggi, soprattutto quelli di seconda generazione che magari fanno fatica, io penso soprattutto alla Francia dove ci sono le quarte e le quinte generazioni immigrati, hanno studiato ma poi non riescono magari a trovare un lavoro. Cultura ma anche dialogo, accettazione, quindi il problema ce lo poniamo oggi in Europa perché abbiamo soprattutto in Italia questa immigrazione massiccia che arriva dal Nord Africa. Quindi ci vuole una cultura dell'accoglienza per fare in modo che l'altro non si senta rifiutato, ma poi ci vuole anche una risposta dall'altra parte, per quello chiedo il dialogo ed è importante appunto un processo in due direzioni, quindi chiedere agli altri per esempio di rispettare le nostre regole, le regole che ci sono in Italia, le regole che ci sono in Europa e anche le sensibilità che ci sono in Italia e in Europa. Quindi se per esempio abbiamo qualche difficoltà con gli imam che predicano in arabo, beh, cerchiamo di costruire un corpo di imam che parli anche l'italiano, che non faccia paura, quindi che so, anche banalmente ai nostri servizi di sicurezza. Cerchiamo di mettere in atto anche degli altri meccanismi. Chiediamo per esempio agli immigrati musulmani che arrivano in Europa di dimenticarsi il niqab, la poligamia, tutte quelle cose che urtano la sensibilità tipicamente italiana e europea, perché appunto sono cose che ci fanno assolutamente paura. Sono giustificati il niqab piuttosto che la poligamia in determinati luoghi, non qua in Italia. Ci sono anche degli stessi imam, dei leader religiosi che dicono che lo stesso velo ha senso, aveva senso ai tempi del profeta Maometto per coprire le donne e proteggerle, ma non ha più senso in Europa, in Occidente, perché ci sono le leggi che ci proteggono molto meglio di un pezzo di stoffa. Quindi sradicare questo binomio irrazionale che troppe volte si porta avanti di Islam e terrorismo. Sì, quello sicuramente. Poi ci sono due tipi di terrorismo. Da una parte c'è il terrorismo, quello pensato, quello jihadista, quello fatto a tavolino. E poi c'è invece un altro terrorismo, quello estemporaneo, che poi trova anche un suo posto in letteratura. Tra l'altro, visto che stasera Perissinotto, che è uno scrittore di Torino, Alessandro, molto bravo, ha scritto Semina al vento, un romanzo la cui protagonista è una donna iraniana per modo di dire, come io sono iraniana, sono nata e cresciuta in Italia, mia mamma è italiana, e però c'è questa etichetta, questa abitudine a dare delle etichette e definirci un po' in un modo magari che non sentiamo noi nemmeno fino in fondo. E questa donna è nata e cresciuta a Parigi e si fidanza e poi si sposa con un piemontese, ma non viene accettata questa ragazza nelle valli della Valsesia, quindi nel nord del Piemonte. Addirittura si scontra con le leggi dei leghisti, con le ordinanze di un sindaco leghista che vieta il burkina, che le impedisce di cantare nel coro di questo villaggio piemontese, di questo paesino del Piemonte, e lei poi diventerà terrorista. Lei che ha una cultura umanista, comunque è nata e cresciuta in Francia, quindi teniamo presente anche che ci sono delle umiliazioni che uno vive sulla propria pelle, che sono così forti che poi possono dare sbocco delle reazioni del tutto estreme. C'è poi un altro problema, Federico, che secondo me sono, proprio perché il terrorismo è una tematica in continua evoluzione, è quella legata ai due pesi e due misure dell'Occidente. Cioè noi Occidente, Stati Uniti piuttosto che Europa, vorremmo esportare la democrazia, abbiamo fatto la guerra in Iraq e via di questo passo, adesso andiamo a liberare la Libia, però ci sono casi in cui invece l'Europa, l'America non intervengono, guardiamo il caso del Bahrain. In Bahrain c'è una dinastia sunnita che sta letteralmente facendo fuori tutta la classe dirigente, di insegnanti, di medici. Perché? Perché hanno osato scendere in piazza a protestare, di questo non si riesce a discutere, non si riesce a scrivere. Grazie davvero a Farihan Sabahi per il suo contributo in questa puntata dell'Altra Europa. E abbiamo ancora pochissimo tempo, un saluto al volo, visto che si parla del salone dei giovani, oggi vi abbiamo voluto qua i ragazzi del liceo Giordano Bruno, ma non solo, perché il Salone del Libro è raccontato anche in diretta da dei giovanissimi giornalisti. Ciao Sabina. Ciao Sabina. Alessandro. Al volo, cosa state combinando? Noi siamo i ragazzi di Bookblog, ci occupiamo di seguire degli incontri qua al salone, magari anche guardare qualche curiosità degli stand e poi stendere un articolo in redazione che è all'Oval, veniteci tutti a trovare. E il Bookblog è gestito appunto dai ragazzi, che sono dei ragazzi delle scuole medie, un liceo classico all'Ariosto di Ferrara e l'Alfieri di Torino, e poi ci siamo noi della redazione Fista, il cui compito è proprio quello di affiancarci. Buon lavoro, okay? E poi insomma vi troviamo dal link, ci sono tutti i link dal sito del salone. Grazie davvero e buon lavoro. Abbiamo 2 minuti, andiamo a chiudere. John, Scusami se ho tenuto veramente una manciata di secondi per questo tema che senti molto tuo, che è quello delle ragazze, vero? No, no, ecco, mettiti ecco. Anche il microfono, però. Ah sì, allora, questo non è giusto, però. No, ok, io, perché lui mi chiedeva cosa è la cosa più bella dell'Italia, però non come Marpione. Cioè, io ho detto, allora, la cosa più bella per noi stranieri, che è anche, paradoxically, right, è anche la cosa più... Oh, devo stare attento qua. Allora, la donna italiana è la più... buona cosa, sì. Quando ti ama però, no, perché loro fanno un sacco di cose che fanno solo loro, no? Ti schiacci i puntinelli sul naso, ti prendono il camice. No, importante, importantissimo questa cosa. Però sono gelose. Allora, perché io raccontavo lui, aveva la ragazza di Napoli, no? Che le donne di giù, io sono molto fan delle donne di meridionale perché sono veramente passionali. No, è vero. E nelle DNA, anche quelli nati qua, però sono gelosissime. Infatti, da quando io uscivo con lei, non avevo più amiche. Avevo solo zoccole intorno okay, a me. Ok, chiuderei, grazie. No, aspetta, no, mi diceva, no, veramente mi diceva, ma chi era quello zoccolo con te ieri in macchina? Vabbè. Te lo giuro. Un grazie, un applauso a John Peter Sloane qui con noi oggi, all'Altra Europa. Petra Areschi, complimenti ancora. Saluti ragazzi del liceo Giordano Bruno di Torino, insomma in bocca al lupo per la vostra attività scolastica e non solo, e chiudiamo in musica. Che cos'è questa canzone, Paolo? È una canzone in Europanto, la prima e unica canzone scritta in Europanto, che è quel gergo che hanno, quando John è venuto in Italia, per farsi capire, utilizzava le prime parole che gli passavano per la testa. Non tutti noi abbiamo la capacità di utilizzare appieno una lingua straniera, per cui quando si va là si utilizzano tutte le lingue possibili immaginabili mischiate in un'unica, in un unico gergo, che è l'europanto. Paolo Bergamaschi, noi ce l'ascoltiamo tutta, andremo a sfumare l'appuntamento con l'Altra Europa a sabato prossimo alle 10. Grazie ancora per essere stati qua con noi. Un saluto da Federico Taddia.